È molto bello, tutto digitale, tutto celeste, molto molto bello, ma molto bello. Tutto costa $450. Quanto sono tradotte in soldi? $100, quanto è l'euro, lira più lira meno. Siamo lì, sulle 500 euro cosa. Ah, ma l'avete comprato in America, l'avete comprato? Sì, credo. Allora c'è la Giovannino originale, modificato, ha fatto una modifica all'interno di scheda, per questo c'è tutto anche la scheda Colt. Sandro ce l'ha, Porto Torres. La voce si dovrebbe modificare qualcuno, ma... questo è il mio normale, non esce così male, no? Non ce l'ho con te, no. Però con quella persona che ha nominato, che purtroppo c'è la voce troppo fine per quegli apparecchi. C'è un po' la timbrica diversa dalla mia, dai. Io non conosco bene le regolazioni, ma se voglio lo faccio uscire una scheggia, no? Ci sono problemi, però è che c'ha 200 watt, se lo senti in banda laterale è allucinante, oltre 250 watt da capito, il doppio, ha dei picchi anche a 300 watt. Calma, ho detto Giovannino, c'ha la voce troppo fine, lui c'è di fa cosa, però... invece troppo, glielo ho anche detto un giorno, se la voce è fine, se lui ci vuole forse emoziona per far uscire gli apparecchi. Lo so, infatti Sandro lo porta molto bene, io non lo so, però già va bene, per come è fatta la radio, per come è strutturata la radio va abbastanza bene. Già lo credo che va bene già. Vabbè. Cappa. Dunque, niente di particolare. Già va bene. Non si è sentito nessuno. Credo che Antonio sia a Cagliari, Antonio Gordo, Fabrizio, non so. Fabrizio, sei in ascolto? Gesù di Maurizio. Fabrizio ha fatto la notte, sicuramente sta riposando adesso. E fra un po' vado anche io a riposare, non c'è problema. Tra Cusegra. No, ma che. E comunque, quel discorso non è finito, Capito? Martedì termina la... la punizione e mercoledì è trasferita a Sorso. Purtroppo fa bene anche a tutti vedere quelle cose più di volte, di stare un po' più di più sul lavoro e non di stare a cabarovento. Purtroppo lui l'ha fatta e lui l'ha pagata. Non c'è da scherzare con quelle cose. Cazzo, se tu c'hai un impegno, non è che fare un cazzo di fuori, no? È come che io ho sempre questo impegno, c'ho il lavoro, e devo, appena che ci da mondo, io devo andare a portarla. È come che... Aspetta, parlava Antonio. Cazzo, non è posto. E domani non è posto. Qui tu mi dici, ma non è che fate cucino? Domani mattina si accoppa una cosa, vai via e vedi andare a dirmi, ma subito però. Lo so, vabbè, comunque adesso l'hanno paralizzato forte perché deve viaggiare con la macchina sua, è un bel casino . Ormai si impara a fare un matto. Come ti si dice a Sassari, perché non tocchi di cuglione a vedere se è macio, va buio. Antonio, non hai idea di quante volte gli ho detto io di fare la brava. buttarsi un po' più sul lavoro e lasciare stare tutte le altre cose. Sì, sì, sì, sì, però non l'ho mai fatto. Adesso si arrangia. Io non posso più intervenire, sono intervenuto anche stamattina con molta tranquillità perché io ho un buonissimo rapporto aziendale, però mi hanno detto ascolta Claudio, noi abbiamo pagato e adesso paga lui. Quando ci dimostra che è quello che deve essere, allora torna alla normalità. Per il momento lui rimane assorso e assorso si ingalera. Dalle 7 alle 2 non ti puoi muovere e dalle 2 alle 7. Capito? Poi c'è un rientro serale. Com'era in giro, si poteva fermare quando voleva. Invece adesso è in galera. Peggio per lui, sarà voluto lui. Sarà voluto. Noi che punti, cazzo, non basta le cose. No, cara che ha fatto lo guglione, tu l'hai fatto lo guglione. Non sono fatti loro, non è la città che ha fatto lo stronzo. È stato un dubbio, esatto, e allora prenderebbe tutte le conseguenze. E tu cosa dici? Cosa dice? Pentito, purtroppo un errore, però sto dicendo che nel mio lavoro chi sbaglia paga, non c'è niente da fare. Io ti ripeto, sono intervenuto, però non ho potuto fare niente. Non ho potuto fare niente, nulla, mi hanno fatto da parte, capito? No, vabbè, gli ho detto tranquillamente, che cosa, giustamente. Alla fine non te ne importa manco niente, non te ne importa. Cioè, poi alla fine fai il tuo, basta, per non stare anche a metterci multiciaramente, già lo sai poi come sono fatti. Pensami come domani, così che alla fine tu gliel'hai chiesto, però poi fai il tuo fatto, niente di particolare. Vabbè, io gliel'ho chiesto anche un po' puntando i piedi, però non c'è niente da fare a tutto, non c'è niente da fare. Loro sono arrivato al dito questa multa, sono soldi buttati. E quindi sai, le aziende, anche se ne hanno, questo non ha problemi, hanno 35.000 dipendenti, quindi no, hanno una città praticamente, e poi è fortissimo, però buttare via i soldi deve essere che gli hai toccato il culo, capito? E allora te la fa pagare. Scappa, beh, ma questo vale anche per tutti, questo vale per tutti, anche tutti quanti i tuoi colleghi, ciò che è successo a Carumanco, imparami, tanto usani tutti, avanti ne è passato una volta a Romanco, usani sanno che cosa si va incontro se non si fa da brave. Purtroppo siamo in una maniera, anzi è già un miracolo che l'hanno perdonato, guarda, perché secondo chi è ti prendi i piedi e vai dinni, ma vai dinni immediatamente, è stato già un miracolo. Non lo so, non so se è finita così, sto dicendo che questi sono spagnoli, capito, non hanno niente da perdere, capito? Non è niente da perdere tu, quindi non ne affronti assolutamente niente. Aspetta, va a attaccare la colonnina esterna. Prova. Però tu sei? Attenzione, bombo. Fatti porto Torres. Carissimo, bombo. Guarda, ti sento, avanti. E allora, a posto? A posto, mi sono in compagnia di Claudio Sparviero. E me, Sandro Tigre. Oh, signor Sparviero, buonasera. E allora? Forse perché è molto potente. benissimo qua. Sì, sì, va a provare noi due allora. Abbiamo ragione di niente, noi lo sentiamo bene. Sono pure cazzo, ho usato 40, avevo un macchino o due, ma quindi altro di fruttare della pressa. Non so, aspetta, rispondetta, Alessandro. Ma aspetta, tu ci sei venuto una macchina, lascia l'esperienza mia con la tua, tutti i dini. A me sto facendo male. Poi per esempio sta facendo male, muovo per Claudio, qua. Fidati di loro, voglio dire, per me non mi fa schifo la radio. Ma tu lo sei reggito, non c'è problema. E ti faccio sentire come stai uscendo. Sandro, che ne dici? Eia, ciao Luca. Ah, io lo ascolto bene a Claudio, Luca. La bella è qua. Ma per te, avanti qua. Io non sto usando niente in particolare. Sto usando quel baracchino che c'ha appena lì, ecco, e basta. Non lo so perché sto uscendo male. Ma basta dire, sto uscendo male che fa schifo la radio. È tutta una... Non sembra... Non sembra anche tu. Non sembri neanche tu, vabbè, io ho detto la mia, proseguite, dai, e cominciamo a mangiare il panino. Aspetta, aspetta un attimino. Claudio, cosa stai usando di apparato? Il DX98. Il DX98, ok, forse perché c'hai troppo eco ed è per quello. Ah, non lo so, io ecco non lo sento. Abbassiamo l'eco, togliamo l'eco, va bene così? Ma io ti ascolto bene. Ti ascolto bene, senza nessun problema. Non so Luca adesso. Ma tu, scusa se tu vuoi, come paragonare un racchio con una radio, scusa, per questo paragone. E non fateci così il paragone, ti vado di cos'è e tu cazzo con una Golf. Però fa questi paragoni, dai. E fatti i filtri anche, se ci vuole nemmeno, lo leggo e posso anche ascoltarlo diversamente, ma non cambia niente. Se la fate sicura tu con un maracchino più superiore al mio, io dico tu un maracchino meno superiore al tuo, il tuo è superiore e riceve in una certa maniera, il mio è inferiore e riceve in un'altra maniera, capito? Però inserendo l'NB1, non disinserendo l'NB1, non cambia niente, è proprio la radio che c'è una chiave, una moneta, una bocca, una moneta, non c'è una bocca, no, per così. Aspetta, niente di strano Luca, che magari essendo vicini voi, magari lo senti rimbombante, capito? Claudio, prova a abbassare la potenza. La potenza? Sono a 25 watt che potenza devo abbassare. Se mai la riprendo sollevare, ora, se mai la devo sollevare. C'è i picchi negativi adesso, non c'hai l'alimentazione sua. Ah, sì, allora aspetta che lo passiamo. Perciò non c'è nessun problema, ma la grave è così. cedito. Vediamo. Alla grave. No, la mia radio che non si arrancasse, sì, anche questo. C'è stato un break, avanti. Ciao Luca! se siamo più corto, lo sento fatto, lo sento. Che va? Ma si va a spostare, cioè? E se vuoi salire, c'è la parte. Ciao, vedete, che va con un fogaretto di barreate. A vedere. Hai detto, hai detto. Come on.